Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori, benvenuti. Domenica, siamo qui in diretta, 14:33 minuti e 58 secondi. Voice Anatomy è veramente emozionata con il suo conduttore a cominciare questa puntata. Lo capite da queste pause, perché mi sto guardando intorno e sono circondato da grandissimi professionisti. Però prima di presentarvi i protagonisti della giornata, ci sono altri protagonisti che normalmente mi accompagnano, visto che parliamo di voce, con la loro spettacolare voce all'unisono, questo gruppo straordinario, ma mi introdurrà poi il personaggio che vorrò presentare. Prego. O Saracina, o Saracina, bello aio, o Saracina, o Saracina, tutte femmine fanno murà, e belle facce, e buone core, sabe fa amore, e malandrina, e tentatore, si ho guardato la fanno murà. Eccoli i Baraonna, ospiti, l'applauso c'è nell'aria. Immaginiamo. Esiste. Ciao a tutti. Eccolo, è arrivato dall'altra parte del vetro. Da uno stadio arriva. Caro Alessandro, grazie di essere sempre lì puntuale. Alessia Navarro, Mauro Meconi, i nostri grandissimi autori. Grazie Gaia, caporedattrice dall'altra parte di Milano, pronta e attenta. Ma alla mia sinistra, dopo i Baraonna, due ospiti d'eccezione. Uno che non c'entra niente come me, come nazionalità, perché qui parliamo di nazionalità. È così, qui parliamo di Napoli. Lui è il dottor Giorgio Restelli, capo delle, direttore generale delle risorse artistiche di Mediaset, e non solo, per cui lui ci sta bene ovunque e sempre. Giorgio, grazie, benvenuto. No, grazie, io sto bene soprattutto qui con te, perché è veramente bello essere qua, ci tenevo a esserci. No, vabbè, voi dovete sapere che Giorgio è veramente, sai, quelle persone giuste al posto giusto, no? Incredibile. Sono cose, sono non delle succede nuove... mai. Non succede mai, no? Quelle persone dici, beh, risorse artistiche, vuol dire che ci capisci. Sì. Perché Giorgio ha cominciato dalla base, ma è anche un grande manager, quello lo sei sempre stato. Grazie. Per cui, anche se adesso il microfono ce l'hai da una parte, la tua voce sta dall'altra, c'è una bella voce. Per mi cui metto più a favore, va bene. C'è, più a favore, vedi, lui c'ha la telecamera di fronte, è anche un uomo piacevole. Invece alla tua destra, caro Giorgio, e alla mia sinistra, di fronte ai Baraonna, c'è il nostro ospite artisticamente alto, che io non fisicamente alto, non voglio dire quello, o non parlo di fisicità, parlo di straordinarietà proprio cerebrale, artistica e tutto. E con lui voglio percorrere all'inizio così, lo voglio introdurre proprio e raccontare alcune delle sue innumerevoli sfaccettature attraverso i brani di un album che io ho amato, ma come altri milioni di ascoltatori e di spettatori, di chiunque. Allora, tu sei nato a Napoli e qui ci sta, dissilo sì o no? Sì. Bravo. Precisamente nel quartiere Marianella. Marianella, Scampia. Scampia, che insomma lo conoscete non soltanto per le due stagioni di Gomorra, no? Cioè, uno Scampia nasce, no? Anche un quartiere popolare straordinario. C'è ancora il West. C'è ancora il West. Il primo marzo del 1955. Sì. Di Restelli non l'abbiamo detto. Un anno dopo, nel 56. Tu sei nato una grandi annate comunque. Per cui il 59 è un'annata a male. Sotto, cioè, il 60 va tutto bene. Ah, ok, sono d'accordo con te. Sono d'accordo. Tu sei cantautore, strumentista e il sax su tutti è il tuo strumento. Tu sei il soul. Non dire ancora il tuo nome. tanto lo sanno. Non c'è più sole. Ma tu sei il sole, questa è la prima sfaccettatura. Tu sei il sole, vero? Dicono. Lo dicono gli altri. Dicunt. Tu ce l'hai, hai un'anima grossa più di tutto il mondo. È il Sol, Giorgio, tu che ti interessi di artisti. Ma poi l'Italian Soul, lui è veramente straordinario, straordinario. E soprattutto quando lo ascolti ti perdi. È una voce che ti porta lontano, visto che siamo a voi, Senato. Che bello. Pazzesco. Grazie, che bella definizione, vedi. Paraonna, è il Soul. È un mito per noi. Adesso no, è il Soul. Beh, il Soul, sì, è l'anima, okay. Certo. Vediamo se è... Se tu sei anche il funk. Taxing metropolis and fields. Mamma che caos. Mamma. Playback murate blue jeans. Tu sei anche il funk. Anche. Dicono. Dicono. Fra un po' parlerà di più, ve lo giuro. Farò parlare. Adesso l'ho costretto a rimanere inglobato in questo mistero. Altrimenti lui parla e dice anche delle cose in maniera completa. Giorgio? Beh, guarda, qui c'è l'anima di Napoli. Napoli è meravigliosamente generosa in queste cose. E lui, non diciamo ancora il nome, non l'hai detto ancora, no, però lui la rappresenta veramente in una maniera straordinaria, straordinaria. A voi non ve lo dico perché siete due di Napoli. No, io penso che vada anche al di là di Napoli, cioè lui sì. È proprio il Maghreb, è tutto il bacino del Mediterraneo, è tutto, quella fratellanza musicale. Ma dopo il solo, il funk, lui è anche il jazz e la fusion. Questa è Blackout, tutte tratte dallo stesso album dell'86. Io debuttavo a Pronto Chi Gioca e lui veniva ospite presentando questo album che è rimasto nella storia, non solo questo, poi se ne sono succeduti tanti altri. Voglio andare un po' più di corsa perché voglio dare poi il giusto peso alla figura che ho vicino a me. Tu sei anche la ballata. Cioè... No? Ballad è questa. Giorgio, un lento così... Rischi anche di aspettare un bambino alla fine, dai. Ci sta. Cucina di prima, no. Rischi magari che lei si perda nel sudore della folla con Blackout, ma questa è pazzesca. Non molla mai. Però, e questo te lo dico io, e cerco di dirlo con la voce migliore, anche se è un raffreddore che incombe, ma sta migliorando. Tu sei il sale, le barche, il sole, le rocce, tu sei tutti i mari e tu sei tutti i popoli. Signori, Enzo Avitabile. Grazie, buongiorno. Buongiorno a te. Che bello essere qui. Sì, vabbè, l'avevano già detto qui tutti quanti gli ascoltatori. Ma è insavitabile, cioè io ho tenuto nascosto per 10 minuti, ma ci sono riuscito veramente poco e male. Enzo, è bellissimo che tu sia qui. Perché... me è una giornata indimenticabile perché seguo le tue cose, questa cosa mi piaceva tanto, quindi ti ringrazio di questo invito. Ma, poi sono felice di aver incontrato oggi Giorgio. Guarda, Giorgio è un'altra persona che come te conosce che cos'è il peso dell'umiltà, no? L'ambizione sicuramente, ma dell'umiltà. Ecco, avere Giorgio Restelli, che per me rappresenta sempre un punto di riferimento artistico, perché ho lavorato con lui 13 anni, e sentirlo che dice: Pino, complimenti per quello che state facendo, sì. Mi piacerebbe molto venire ospite. Sentire te, che t'ho inseguito artisticamente da sempre. Sentire la tua telefonata che dice grazie per avermi ospitato, a me fa pace col mondo, comincio ad amare anche delle persone che hanno fatto male al calcio, male alla vita, male alle persone, che hanno malmenato qualcuno. E queste sono cose straordinarie perché sono io che ringrazio voi, perché questa grossa forza che vi contraddistingue a te nel tuo ambiente, Giorgio, a te in questo artistico. Sicuramente è quello che vi dà ancora quella luminosità nel viso e la voglia di continuare. Siete un punto di riferimento straordinario. Così anche tu, perché questa è un'occasione, sono occasioni per noi fondamentali, per poter innanzitutto incontrare la gente, per poter promuovere la propria musica e per riuscire ad andare, secondo me, oltre la pubblicità, nel senso di esci finalmente a dire delle cose senza sì. l'impegno di dover a tutti i costi rientrare in una sorta di pubblicità di ciò che fai. Quindi premia un po', secondo me, più l'opera che il prodotto. Sentiamo ancora questa bellissima canzone, questa è come il titolo meraviglioso, Tutti uguali sono gay creature. Tutti uguali sono gay creature. Che è una cosa meravigliosa, tratta da un documentario, poi ne parleremo lungamente di questo. Ascoltiamocela, chiudiamo con questo il primo blocco, voglio soltanto far ascoltare queste due voci straordinarie, come si missa, no? Il Mediterraneo in un unico suono. Quello dell'arte. Questa è l'idea del Sociova di Buonavista Social Club. Sì, un'altra persona che ha cominciato da poco. Ascoltiamolo insieme. Queremos verlo jugar. Vamos a llevar al niño. Que no nos miente jamás. Vamos a darle la mano, a darle felicidad. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno inclusi nel prezzo. Vi presenta Voice Anatomy. Bentornati signori, Voice Anatomy, qui sono circondato Giorgio Restelli from Milan, direttore generale risorse artistiche e uomo di grande spessore, grande sensibilità. I Barahona al mio fianco e festeggiamo il grandissimo Enzo Avidabile. Un pezzettino, Napoli ancora? Yes. Napoli ancora. Questa è una tarantella che abbiamo scritto noi, che ricorda un po' la Napoli del 600, ma è scritta qualche anno fa, insomma. Ognuno fuite con mare zanella speziale fuite. Muovere ne ca, muovere ne ca. Francese, spagnolo, brigante, sa povera gente non pote fa niente. Si viene ne ca, si viene ne ca. Chi se non fanno pazzia, fanno vera, ti fanno qua fatta sa. Potrebbe non essere un bambino, se non da cala, su confa nei guai. Si muove da, ognuno fuite con mare zanella speziale fuite. Non sta affidando, ognuno fuite. A chi sa chi la Lucca, Lucca, Lucca, c'è la piccola vescova e piccolo re. E a suo popolo paccerilla. Tarantè, tarantè, tarantè. Tutta la roba ne tutta la neve, la zina da gara, suo popolo è qua. Questo per far capire che è in diretta. Sì. Perché io lo dico anche durante gli spettacoli. Me volete sbagliare una nota? Perché la gente pensa che è in playback. Vi prego. No, pianoforte. Mi veniva da ridere. No, pianoforte. Lo puoi fare sempre con noi, Pino. Smettila. Beh, preso... Ormai sei la quinta voce. Ma io prendo delle ottave che voi neanche vi immaginate. Avidabile. Allora. A 7 anni tu ti sei esibito la prima volta. Sì. Per bisogno. Perché sentivi già il fuoco che ardeva? Perché papà ti ha detto va, mamma ti ha detto canta. No, io o sei scappato, che è successo? La mia è una Napoli, diciamo, non tanto in vista, nel senso che è la Napoli della periferia, in cui c'era un jukebox come punto di riferimento. E da quella scatola magica usciva tutto, usciva James Brown, Tina Turner, Africa Bambaataa, Richie Evans, Randy Crawford. Quindi il mio sogno era quello, imparare a suonare uno strumento che faceva da protagonista in quel tipo di musica e poi incontrare tutti loro. Ma l'hai fatto? L'ho fatto. Dopo ho capito pure che non sono amico nemico, nel senso che comunque poi avrei avuto bisogno di trovare una mia dimensione. Però l'importante sì, è che incontri e segnali, che realizzi i tuoi sogni. Questi segnali, no Giorgio, sono direttamente proporzionali. Cioè il sogno è direttamente proporzionale. Tu sei, hai vinto anche un premio importante di Positive Manager, che non è una stupidaggine. È la cosa fondamentale, l'atteggiamento alla vita. È un atteggiamento che poi, come dicevi giustamente te, prende affonda le radici nel sogno. Io sono convinto che il fatto di avere sempre dentro una prospettiva che ti porta a interpretare il tuo futuro e cercare di realizzarlo anche solamente in modo figurato e poi vedere che si concretizza, sia una forza straordinaria. Si può raggiungere dentro, vedi, in lui questa cosa, i 7 anni che hanno incominciato a segnare un percorso e che hanno portato dove ha portato. Esatto, non è nato a New York o ad Harlem, mezza abitabile, ha incontrato giustamente James Brown eccetera, no, lui è nato a Napoli. Sì, devo dire che Napoli, come ti dicevo prima, sì, le sonorità, sì, ha una generosità in questo senso che è straordinaria, diventa così internazionale in una dimensione così provinciale, se vuoi, alla fine, no? Se tu la consideri a livello mondiale, però riesce a essere poi così straordinariamente internazionale. E io voglio parlare anche soprattutto dell'ultimo tuo lavoro, Lotto Infinito, dove manca soltanto Giorgio come cantante e Barry White per ovvi motivi. Il resto ci sono tutti, e uno ce l'abbiamo al telefono. E sto parlando del grandissimo Mannarino, che essendo anche qui, insomma, in questa città, Roma, eccetera, potrebbe anche venire ospite un giorno. Tu vieni da Napoli, Mannarino. Buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno, non ti sei svegliato adesso, no? Non sei il solito. No, però. Mannarino, com'è stato questo rapporto artistico con Enza Vitabile? Com'è nato? Ma guarda, per me è stato. Alessandro, ovviamente, ti chiamo per nome, posso? Insomma. Sì, grazie. Prego, so che chiamami insegno e va bene uguale. Va bene, guarda, è stato un incontro di quelli che da cui non si torna indietro, insomma, perché ho imparato tantissimo lavorando con lui. Io lo seguivo, diciamo, musicalmente, però non ci conoscevamo. Un giorno mi è arrivata una telefonata di Enzo che mi chiedeva se fossi interessato a scrivere qualcosa insieme a lui, insomma, partecipare al suo album. E per me è stata subito una gioia, perché nutro veramente una stima gigantesca nei confronti di Enzo come artista. Guarda, l'abbiamo poi messa. L'ho conosciuto come uomo e devo dire che sono rimasto veramente stupito, perché chiuso il cerchio. Sì, ho avuto la conferma che quello che pensavo sull'artista viene da una sorgente che è la sua umanità, che mi ha stupito, e quindi ci ho legato subito, insomma, è stato facilissimo poi lavorare insieme. Ed è nata, penso, me, è nata Sanghetto Martire, ascoltiamolo per qualche secondo, dai. Sanghetto Martire ammazzato dai bravi cristiani, chiuso dentro una gabbia con una bomba legata alle mani, morto di sonno e di roba, risuscitato da solo, Sanghetto Martire alla fine ha trovato lavoro. Grande verità, Alessandro, bellissimo questo incontro da due posti estremi, importanti, ma grande verità, bellissimo, veramente complimenti. Ah, grazie, ma mi aveva stupito questa storia che mi ha raccontato Enzo su questo santo di Scampia, no? Che è un santo di cartapesta, che è cominciato col carnevale, però poi è stato buttato lì sotto uno scantinato e la gente ha cominciato a mettere ex voto, insomma, ha funzionato. A mettere bigliettini con le ha funzionato. E mi piaceva l'idea di questa povertà, no? Che è una maschera di carnevale, anche la povertà, cioè la crudeltà che viene messa sul povero. Il binomio povertà-crudeltà è una maschera di carnevale che mette il potere sulla povertà. Che bello, grandissimo poeta Alessandro, ma io lo sapevo, è un incontro bellissimo. Ringrazio Alessandro perché è straordinario, inutile dirlo, insomma, io. Ma vabbè, dai, mo non esageriamo. Allora lo dico io, guarda, lo dico io e Giorgio Restelli, lo diciamo in Baraonna, lo dice Alessia Navarro, lo dicono tutti. Alessia, devi sapere che la capa autrice insieme a Mauro Meconi questa puntata mi ha fatto scoprire la tua grandezza, caro Alessandro, non adesso ovviamente, già da qualche anno, però mi ha accostato a te, veramente grande poeta, veramente. Continuerà sempre il nostro rapporto di arte e di musica, perché abbiamo certo intenzione di fermarci, diciamo. Non finisce qui, no, assolutamente. Oh, come diceva Corrado, delle sorprese presto, assolutamente. Questo è soltanto l'inizio. questa posso fare la voce io sul disco. Ma questa bellissimo. È un'altra storia. Mannarino, Enzo Avitabile. Ciao Ale. Stasera alle 20:40, canale 5. Ale, ti abbraccio. Grazie. Spero di averti ospite qui. Grazie. Presto, presto. Volentieri. Un abbraccio volentieri. Da parte nostra, di tutti. Baravonna, Giorgio Restelli, Enzo Avitabile, la redazione, tutti. Grazie, complimenti. Un saluto grande a tutti. Ciao Ale, ciao, stai bene. E voi invece restate ancora con noi, perché Voice Anatomy mi è appena cominciata. Voice Anatomy. Bentornati signori, quasi le 15 in punto. Voice Anatomy è qui, Enzo Avitabile è qui, Giorgio Restelli è qui, ma sono qui i Barona. Per favore fate la sigla di Voice Anatomy. Vabbè, al giorno. Oh yeah. Mi dispiace, grazie, è in diretta. Voice Anatomy. Oh. Voice Anatomy. Fatelo con amore, vai. Voice Anatomy. Come si intitola? Voice Anatomy. Enzo, unisci a noi, dai, così si capisce che è. No, non cerca di arricchire cose. Voice Anatomy. Io dico nada. Vai, ti prego. Io dico nada, vado fra un coppo ritmo. Voice Anatomy. E modo dico nada, vado fra un coppo beat. Voice Anatomy. Loro di punta, insomma, non potete una dita rinde. Voice Anatomy. Loro tu mattengo, loro tu mattengo. Voice Anatomy. Io dico nada, vado fra un coppo ritmo. Voice Anatomy. Io e Restelli, gli ultimi due I sono miei e di Giorgio Restelli, che abbiamo valorizzato tutto il brano. Giorgio, no, stavo sentendo la sua voce come si è inserita. E devo dire, anche prima tu dicevi è il sole, il funk, il... tutto. Lui è il colore di un quadro, quando c'è lui, il suo suono, la sua voce diventa veramente una grifa, è pazzesco. È veramente emozionante, cambia tutto davvero. Adesso parlavo di cambiare la sigla, devi usare questa. No, caccio via Barona sono amici, no, ci lavoro insieme. No, forever, sì, Barona forever. Ma perché non tornano a vivere a Napoli e tu vieni a Roma? C'è un cambio, ma anche loro saranno stanchi di lavorare sempre con me. Vabbè, ci ho provato. Invece dall'altro capo del filo telefonico c'è un altro protagonista di questa grandissima operazione Lotto Infinito. C'è un altro collega, posso dire collega, perché non è un cantante, almeno non a tutto tondo, ed è un grande, qualcuno che mi ha insegnato qualcosa in questo mestiere e ce l'ha insegnato un po' a tutti. Lello Arena. Ah, buongiorno, non sapevo, pensavo che stavi parlando di un altro. Meraviglioso. Che non tocca a me, che non tocca a me. Dai. Buongiorno a tutti, non volevo neanche dare fastidio con la sigla, ho visto, poi insomma c'avete tutta gente in gamba. Sì, infatti abbiamo soltanto io e Giorgio Restelli, non c'entriamo moltissimo, che ti saluta tanto. Ma mi posso mettere un po' burio. Sì, adesso siamo noi tre, Lello. Esatto, vai così. Lello, Napoli sicuramente il minimo comune multiplo che vi accomuna in questa bellissima avventura. Com'è successo? Come vi siete sposati su questo disco? Ma fortunatamente succede sempre, come dire, si dice che i sogni sono desideri. Sì. Io, come dire, fortunatamente, come dire, ho questa capacità di realizzazione dei sogni. Insomma, se da piccolo mi avessero mai detto che un giorno sarei stato in una track di un disco straordinario come quello di Enzo, e avrei potuto collaborare con uno così, insomma, avrei detto delle parolacce terribili che non posso ripetere. E invece poi succede perché insomma c'è voglia di contaminarsi, di stare insieme, di farsi compagnia, anche di farsi coraggio in qualche occasione, e quindi poi insomma le parole sono quelle, e quindi uno si fa, come dire, portatore sano di cose belle. Questi quindi sono virus che anche al Ministero della Sanità farebbe piacere avvertire, sono contaminazioni appunto. virali importanti, Lello. Quindi insomma, sembrerebbero cose semplici, poi sono universi che si incrociano, però certo. Finché possiamo farlo e finché serve e finché fa bene al cuore di noi tutti, eccoci qua. Poi tu sei testimone del cuore di Napoli in tutte le direzioni, a questo punto ti sei preso anche la parte musicale, oltre quella artistica con... tuo grandissimo, il nostro grandissimo indimenticato Massimo Troisi, Enzo De Carlo, che non voglio dimenticare, Lello Arena, questo trio straordinario, se di trio si può parlare sempre e comunque, a parte ovviamente, è sempre tre eravamo. È tre eravamo, perché ovviamente il trio è un po' l'acronimo di Marchesini, Lopez e Solinchi, che abbracciamo ancora più forte, però Lello, questa cosa bellissima. Ma c'è, caro Alessandro, dall'altra parte del vetro, mi fai sentire addosonnato io? Per me o rulore è normale, è come o vento. A morte, una bella giornata, nessuno ti avvisa e all'intrasatta, chiova. Addosonnatia, a gioia è vietata, è come a droga. O silenzio scende come all'ombra, come il prete, e cancella un nome e non è più tornata. Addosonnatia, e parola, soccurtiella appuntuta per tutti i figli e gli sei sempre stata. Addosonnatia, l'infanzia senza perdere tenerezza, è un destino. Ma poi qualcosa arrivai, acqua fresca per radice addormuta, colore scatenata, goppa a pece e cemento, nuvola d'amore, profumo di passione. O munna che era, adventa, o munna che è cagnata. E, rinda a terra la fame da sete, roppa secola di spasma e stagione di dormiente, scansando trappole d'ora e tagliole renare, che mai nessuna non sarà abbandonata. Eccola, questa è la chiusura, la chiusura dell'album. Dell'album, piace chiamarlo album. Ci vuole un così sia, e gli artisti lavorano per questo, perché nessuno venga abbandonato. E questo è un po', come dire, il compito che nessuno ci ha affidato, ma che tutti i giorni svolgiamo con grande passione e con grande entusiasmo, perché la gente non si senta abbandonata e l'arte sia, come sempre è stato, di grande conforto, di alternativa. La musica, il cinema, la pittura servono a questo, servono nei momenti di sconforto a trovare una strada possibile, e gli artisti hanno questo compito, che spesso è un po' gravoso, ma lo facciamo ogni giorno con passione, con emozioni e sentimenti. Lello non lo dice, ciao Lello. È insavitabile di star parlando, Lello. Lo riconosco. L'hai riconosciuto. Fa un grande lavoro pure laboratoriale, nel senso che veramente mette il seme nei giovani, li guida, li segue, questo è importante. Poi io, diciamo, questa cosa è nata pure perché io non mi perdo mai nessuna opera sua teatrale, perché Lello va visto pure nelle letture di... Lello va anche vissuto, perché è Lello gran va persona. Vissuto, ma vanno viste pure le sue opere, sì, quelle che fa ogni inverno nelle sue stagioni teatrali. Come diceva un amico mio, vivetemi finché sono vivo. Ed è giusto. Non mi fa ridere che c'ho la tosse. Vivetemi finché sono vivo. Mi dispiace. Non lo fare. Mi dispiace. È mia questa battuta, Restelli? Non te l'hai sentita a me, a Mediaset? Non mi sembra che sia tua. Sì, però aiutami, però pure te, Giorgi. No, che non cara. Posso. C'ha più impulse di me, è vero. Assolutamente. È vero, c'ha più impulse. Però guarda, io voglio dire una cosa. Intanto saluto Lello, che non vedo dopo di tempo, gli do un abbraccione. Finché ci sentiamo c'è una cosa. Bravo. Così ti vivo, finché sei vivo. No, quello che dicevo è la magia che c'è in questo lavoro. Tu guarda che questo pezzo finale è straordinario ed è anche, se vuoi, sofisticatissimo, cioè in confronto a quella che è una produzione che a volte può essere, le scelte che fa Enzo e le persone che poi collaborano con lui riescono a portarti sempre a un livello più alto, cioè non è solamente una questione di ricerca di suoni, di sonorità, ma anche questi inserti che lui fa, queste magie, di contenuti, sono straordinarie. Sì. Sono straordinarie. grazie Lello. Grazie Lello. Ragazzi, di abitabili ce ne sta uno solo. Sono d'accordo. C'è sta poco da fare. Uno se lo vuole, se lo va a cercare e se lo merita. Se invece non è capace di meritarselo, se perde una cosa, una grande occasione. Lello, grazie davvero. Questa tua grandissima testimonianza. In bocca al lupo per la tua vita, per la tua famiglia, per te. Sei una gran persona, veramente. Grazie assai, vi abbraccio tutti, siete praticamente tutti amici miei e questa la dice lunga sono finiti su che tipo di amicizia frequento. Per un attimo ho pensato stavi di una cosa bella, ma guarda, però diciamo è caduta la linea, di avere compassione per me, ecco. È caduta la linea, abbiamo salutato. Grazie Lello, buona domenica, ciao Lello. Che bello, bello, non ha mai perso questo spirito Lello Arena. È pazzesco, è grande, degli esempi, vedi che il sogno si raggiunge anche con le altre persone che credono come te in quella direzione, come no, anche una grande azienda se rema in quella direzione con grande positività, tu lo sai, si raggiunge l'obiettivo. Assolutamente. Basta uno che negativizza un attimo l'avventura ed ecco che cade tutto il sogno. Tu hai cantato davvero con tutti. Con tutti davvero. Sì. Tu sognavi nel jukebox James Brown e ci hai cantato. Sì. Cioè come hai telefonato James. No, come nasce un'avventura? Io bene o male li doppio, ma li rimangono. Feci una cosa prima con Richie Evans. Ah, certo. Che amava molto le cose che faceva. Io gli dissi: guardi, io ho questo desiderio di incontrare James. Gli diedi i dischi e dici: preparami un po' il terreno. Ho capito. Io pure volevo uscire con Sharon Stone dopo Basic Instinct. Gli ho detto all'amico mio: ho detto, questi sono i garzoni che porto, prepara per il terreno. Come hai fatto? Poi? Mi ha chiamato poi una notte Ricci. Quindi mi ha detto: guarda, James ha ascoltato le cose, piacciono molto a lui. E sicuramente ci sarà una tournée insieme dove tu farai da supporto. Ed è successo. E l'accordo era che poi diciamo riusciva a salire sul palco con lui. Certo. I primi due giorni sono stati difficilissimi perché non era uno facile. Forse stavo in una, a Napoli si dice stavo un po' ingabato. Si è capito. Stavo ingarellato. Quindi io ero preoccupatissimo perché non riuscivo proprio a collegarmi. Insomma. Però ho avuto un colpo perché lui arrivava sempre tardi, quindi facevo il mio set e lui arrivava tardi e quindi non riusciva mai a sentirmi e non sapevo come ricollegarmi. Ma a Pordenone fui fortunatissimo perché a Napoli venne tubata l'acqua, venne a piovere, quindi si ritardò tutto e io cominciai a suonare dopo un'ora e mezza. Per cui doveva arrivare, era arrivato. Successe pure una cosa strana, che lui era anche arrivò, però era arrabbiatissimo. Strano, per una persona per cui si serena. C'erano queste due roulotte, la sua e questa nostra, no? E mi ricordo che mi guardava in modo strano e diceva: ma scusa, mi capite che sono chi le ricci, insomma. Hai capito? Chi le ricci, di noi quello con i ricci. Quello che Ricci Valens ti ha detto di voleva suonare con te. Comunque cominciai a suonare e fu una scena veramente straordinaria, quasi commovente, perché a metà del concerto lui uscì con, non lo so se avevo queste bermude, pantaloncini corti, queste bermude con i a Pordenone sono consigliati con i bigodini. E mi abbracciò e disse: allora stasera canto per te e a metà concerto tu stai sulla destra vicino al fonico di palco perché io ti chiamo a suonare una jam tu e Maceo Parker. Certo, ed è successo. Poi abbiamo continuato a fare questo. La prima volta ho suonato con lui, che era un pezzo, era jam. Poi ho suonato, mi ricordo, Sex Machine. Certo, un altro pezzetto di e quelli. E quando poi ho fatto l'ultimo concerto con lui a Bussola Domani, là era già dichiarato che facevamo questa cosa, e io cominciai a sperimentare a cantare in napoletano sulle sue cose. Quindi ci fece. Ed è cominciando a nascere le commistioni culturali. E ricordo che questa cosa colpì molto James, ma anche molto me, perché mi resi conto che lui mi guardava molto incuriosito, capiva che era la sua musica, però un po' l'aveva persa di mano, no? Nel senso dice: ma chi stiamo questi? Proprio così napoletano ha detto: ma chi sta fa? Infatti, quando tornò in America non lo capirono, sì, stai alla Bussola Domani, perché lui parlava così, cantavamo chi rap, chi ruba. Poi è rimasta questa cosa. E lui mi diede un consiglio: devi fare subito una cosa. Te ne devi andare da qua, no, perché mi stai a dar fastidio. No, devi fare subito una cosa con Africa Bambata. Ah, è nato pure il rapporto con Africa Bambata. Beh, vedi. Senti, Tina Turner con Cettina Girevole, poi Tina in italiano. Turner, Bussola Domani. Tina Turner è una persona straordinaria, perché a Bussola Domani io dovevo ritirare questa, si chiamava La Vela d'Oro. La Vela d'Oro. La Vela d'Oro, perché tra gli esordienti avevo venduto 30.000 copie del primo disco. Ritirai questa cosa, io ero Amy, quindi c'era anche Tina ospite, certo. E la festa era di Tina, giustamente. Che anni erano? 80? È il periodo di Ravera proprio. Che non è Gianni Ravera, diciamolo per le persone. No, è Gianni, no, Gianni no. Ravera, non Gianni il giocatore. Rivera. No, no, no, sì, Gianni non Ravera. Esatto. No, no, piano. Adesso dicono se sono sbagliati, hanno detto Ravera, quello che ha segnato il 4-3. È una cosa bellissima che io il rimasi patron lì con, diciamo, uno della EMI, e poi tutti corsero al ristorante perché Tina già era uscita, no? E quindi mi piacque questa cosa che c'era la televisione nel ristorante, e loro dissero: mo esce Enzo, mo deve ritirare la cosa. E lei chiese, dice: ma chi è questo? Tina Turner è un nostro artista, è un artista della EMI che deve ritirare questo premio. E lei disse: ah, visto che la festa è sua, adesso noi l'aspettiamo per mangiare. Tina Turner, che fa una cosa bellissima. Quindi io dopo sono arrivato con questa cavila d'oro e dice: no, che l'ho aspettata, ma già felicissima. E l'ho detta adesso. Però è successa una cosa importante. Dopo abbiamo cantato insieme, abbiamo passato una serata straordinaria a cantare, a suonare, a cantare, e poi a suonare. Lei mi fece Shokobuku, nel senso mi avvicinò al buddismo di Nichiren Handashonin. Quindi dopo l'incontro con Tina, per 4 anni ho praticato buddismo. Per cui non sono stati incontri, vi siete sfiorati, no. Sono stati incontri, sì. Scontri come James Brown, ma poi è successo qualcosa. Certo. Bene. Allora, noi andiamo in pubblicità ancora, restate con noi, restate ancora. Giorgio, ancora rimani un altro blocco con noi, Barahona, sì. State qui, respirate. Via, a tra poco con Voice Anatomy. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta. Voice Anatomy. Bentornati signori, Voice Anatomy assolutamente in diretta, 15:17 primi e 7 secondi dagli studi di Roma di Radio 24, sempre in compagnia dei miei adorati Barahona, che è la colonna sonora della mia vita. Non a casa, non privata. Restelli, non privata. Non è che io comincio, torno a casa, amore, loro attaccano. Capito? Com'è? Ecco, lui mi suona così. Mi parte e io abbasso la voce e mia moglie dice: non mi incanti più come la prima volta, che la prima volta c'è caduta, la seconda no. Giorgio Restelli, rimani ancora con noi questo blocco, sì, e poi scappi al lavoro, immagino, sì. Devi tornare in quel di Milano. No, devo scappare a Cinecittà. Certo. Stiamo facendo delle riprese di uno spettacolo evento. Ah. E quindi siamo a Cinecittà. Noi non siamo a Cinecittà, però, per cui che evento è questo? Non c'è Enzo, non ci sono io, non ci stanno loro, ma è un evento che non no, è. No, ci siamo dovuti arrangiare senza di voi questa volta, però. Non è un evento grosso, è un evento, un eventino, visto che è un eventino, un 19 più che un eventino. Caro, non mi fate nessuna sigla? Che magari si inserisce l'amico. Che possiamo fare? Noi ci abbiamo un pezzettino che è un po' particolare, però, perché 10 secondi. Non ce la facciamo. No, dai, ci sono degli ospiti telefonici. Facciamo solo la chiusura, l'ultima strofa. Praticamente è stato bellissimo. Grazie ancora una. È stato un pezzo straordinario. Stavamo appunto dicendo che è una trasmissione che lascia tanto spazio per raccontare le cose. Allora, un pezzettino, solo la codina. Abbiamo detto basta con lo swing, però per esprimere questo concetto abbiamo usato musicalmente uno swing, quindi è un paradosso praticamente. Io non lo farei fare a sto punto, però niente swing, ma in questa gava viene solo New Orleans. Niente swing, ma che coraggio che sei nato swing. Ma che coraggio chi sei nato swing. Io batto in quattro e chi sei nato swing. Te l'abbiamo accorciatissima. Senza featuring è insalvabile qui. Niente, non si vende. Vabbè. No, il testo era troppo specifico. Specifico. Non mi poteva entrare Enzo in questo. Però potremmo fare uno special. Dead Sembra degli Aristocatti, fermatevi. Sembra un pezzo, tutti quanti vogliono fare jazz degli Aristocatti. Enzo Vitabile era Minu Minu. Vabbè. Meno male che io e Giorgio Restelli siamo testimoni silenti di quello che sta capitando. Gattone. Sì, fatti amici a quest'ora. Guarda. Dai, vi prego, dopo mezzanotte potete fare questa cosa. Stava anche di notte questa. Sì, poi attaccherò io e faccio io sono Romeo, per meglio del Colosseo, finitela. Invece abbiamo al telefono un altro grande testimone dove Enzo è stato suo featuring nel suo bellissimo disco. Vi unisce anche qui Napoli e tutta la Campania, è Rocco Hunt. Rocco! Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Rocco. Grande. Bello. Maestri, ciao Enzo. Ciao Rocco. Ti ciao, sei Rocco, collegato ciao. Come un giornalista che da un campo di calcio, Rocco. Secondo me è allo stadio. Cioè, secondo me stai allo stadio, c'è ragione Restelli. Hai detto, salve, buon pomeriggio a tutti, qui si sta giocando da 20 minuti il Napoli. E così hai fatto, sei stato straordinario. Sembravi tutto meno che un rap, un cantante e napoletano, non lo so. Io sono precisamente di Salerno. Salerno, che, come noi. Come noi. Come i Baronna, i Baronna sono bello, di Salerno. Bello. Grandi, grandi, un saluto. Un niente, sono felicissimo di aver lavorato e collaborato con il maestro Vitabile. Per me è stato un grandissimo onore poter mettere la mia voce a fianco alla sua. L'onore è mio sempre. E diciamo che A Verità, che poi è diventato anche il nome del mio album, non solo sì. Il nome del nostro brano, ci ha portato tanta tanta fortuna, e quando cantiamo questo pezzo la gente si sente rappresentata, e non c'è cosa più bella di poter fare musica con chi l'ha fatta anni prima di te e trovare insomma anche un connubio vincente, perché poi non è facile collaborare e riuscirci, ecco. Quindi sono felicissimo ed onorato di aver collaborato con il maestro Insalvabile, una secondo me degli esempi della nostra musica nel mondo. Che bello, no? Grazie, Rocco, è stato veramente, tu hai avuto belle collaborazioni nel tuo disco come il grande Enzo. È bello perché Napoli è sempre una grande fucina, Giorgio, parlo con Giorgio Restelli. Veramente, come tu dicevi all'inizio, Napoli, è una cucina sempre attiva. No, ma potrebbe venire a dire, ma sono l'unico del nord qui e mi sento isolato, ma invece non è vero, perché poi dopo Napoli riesce veramente a collegare tutto. È vero, guarda, lo dicono tutti i messaggi, io non ho letto nessun messaggio, vi chiedo scusa. Però i complimenti arrivano dappertutto, dice finalmente il nord e il sud uniti per sempre. Guarda, è bellissimo. Bellissimo. E lo penso assolutamente. Rocco, un grande, molti complimenti, bravissimi tuoi ospiti, eccetera, eccetera. Grande Milano, Napoli, Roma, Torino, uniti per sempre dal sol. Ma dai, eccolo Enzo. Non mi ignorando a credere che a terra su distrugge pianta, può fare carta e coppe e carta, scriva la storia. La verità, ogni uomo in coppa che sta terra con la verità. Non mi ignorando a credere che a terra su distrugge pianta, può fare carta e coppe e carta, scriva la storia. Amo profondamente questo disco. Io sono un grande amante del rap e tutto ciò. Io ho Tupac Shakur nel cuore, tu mi capisci, Rocco, vero? Io ho lui. Assolutamente sì. Notorious, no. Volevo anche farti sapere che con la tua voce e con le tue clip sono cresciuto come è cresciuta tutta la mia generazione, quindi grazie. Non solo è un onore aver collaborato con te, anche un onore stare a parlare oggi. Che bello, Rocco, no, tanto ci risentiremo sicuramente, Rocco, davvero, complimenti. Complimenti per la tua grandissima carriera, complimenti per questo matrimonio artistico. Grazie Rocco. E in bocca al lupo per tutto, Rocco. Di nulla, un saluto a Forza Insavitabile e A Verità per sempre. Ciao per a tutti. Sempre, per ciao. Sempre, A Verità. Ciao Rocco, ciao, che bello. Ciao. Vedi che, senti, ecco, la verità è questa. Questa è la verità paga. Assolutamente. Sempre. La gente se ne accorge quando sente Puzza di Bruciato, che racconti delle storie che non hai vissuto. Ma mi piace la musica quando riesce a uscire proprio dalle definizioni. Io credo che debba essere pure multigenerazionale. Non esiste, secondo me, questo fatto di essere distante. Per me non esiste una musica dei giovani, una musica dei non giovani. Esiste, no, la musica. Come quello dice, questa comicità non la capisco, forse è troppo moderna. Te fa ride o non ti fa ride? Finita la comicità. Dicevo, prima abbiamo parlato di James Brown, Tina Turner, Randy Crawford, eccetera. Ma Pino Daniele. Aspetta, c'è uno strumento meraviglioso che è questa. Sta pentarpa. E ancora tiemba. Tiemba ancora. e ancora tempo. Ma l'acqua è sola e ancora tempo, tempo, fortunatamente, e ancora tempo. Oh, sì. Dio, brividi, brividi. Questo è il pezzo. Questo è l'ultimo pezzo cantato da Pino, da Pino il napoletano. Il napoletano insieme a te, ce l'ascoltiamo un momentino, ce l'abbiamo, guarda. Eccolo. Questa è la tua pentarpa che hai suonato qui dal vivo. E ancora tempo. E si è registrato che in diretta sta cantando. Tempo ancora. Adesso entrerà la voce di Pino. E ancora tempo, ecco. Ma l'acqua è sola. E ancora tempo, tempo, fortunatamente. E ancora tempo, oh sì. Ecco, con uno ti va bene e basta. Non solo qualche duro. Tutti. Lasciamolo in sottofondo fino alla fine di questo momento insieme. E meno male che c'è la musica, Giorgio. Resteranno per sempre insieme a noi. Mi viene difficile parlare perché quando sento Pino io mi commuovo sempre. Sì, sì, è vero. C'è la commozione nella voce. No, è l'assenza che... L'assenza è pesante. Pino era straordinario. Pino era veramente una persona meravigliosa. Sì. Silenzioso. Silenzioso, però allo stesso tempo... Urlava. Sì, ti urlava dentro. Sì. E questo è straordinario. Non ho avuto la fortuna di sfiorarlo molto, nel senso di stare molto vicino. Abbiamo fatto anche a gara chi aveva prima i capelli così, col pizzetto così, e c'era questa scommessa. E qualcuno ancora per strada, qualcuno fa, Pino Daniele, ho fatto magari. Non è così, non è così, purtroppo, non è così. Però sì, la sintesi, io lo dico sempre, quando andavo a vedere i suoi concerti, dico, Pino, io soffro. Dici, perché? Perché urlano 20.000 persone, Pino, Pino, e non sono io. Tu capisci che è la sofferenza, Pino. Poi per il tuo ego, hai capito, così... che è così misurato. No, Giorgio. Lo capisco. Senti, ti saluto perché so che tu invece ci abbandoni, mentre devo resta scappare. Mi dispiace perché veramente resta qui, starei qua, è ancora abitabile, è bellissimo. Torni, questa è casa tua. Io Pino, sono... io te l'ho detto, io ti ho incontrato una volta, non già, ma incontrato 30 anni fa la esatto, mia volta. Siamo amici da sempre, sì. Però ti ho incontrato una sera guidando e ho incontrato questa trasmissione, questo appuntamento, e il giorno dopo mi sono sentito di doverti chiamare e dirti guarda, hai fatto qualche cosa di veramente straordinario, dove c'è una misura, un tratto, tu parlavi prima della verità, qui c'è tempo per la verità, e quindi secondo me questo è un grande merito che ti devi portare. Io torno di sicuro, guarda, quando vieni a Roma tu chiami, mi fai un regalo. E poi oggi mi hai fatto un altro regalone. Sì, questa è una giornata bella, maestro, per me è tanto, e questo mi sembra un incontro bellissimo con questo bellissimo pinsimonio fra me. Saluto e Barona, veramente bravi, vi saluto, e io ringrazio Alessia Navarro e Mauro Meconi che sono i fautori di questa bellissima trasmissione. Salutiamo Giorgio, grazie, voi grazie, vi salutiamo per pochissimi secondi, torniamo con Voice Anatomy, Enza Vitabile, tra pochissimi. Buona domenica. Voice Anatomy. Bentornati signori, Voice Anatomy, 15:33 primi e 28 secondi, i Barona sono sempre qui alla mia destra. Eccoci. Tutti e quattro, e Enza Vitabile continua ad accompagnarci in questa domenica veramente emozionante. Abbiamo chiuso il momento prima con veramente i brividi che erano ovunque, con la voce di Pino Daniele e quella di Enzo, nell'ultima interpretazione di Pino, poi quella di sì, il napoletano che è ancora tempo, che è bellissima. E parliamo sempre di queste multietnicità, incredibile che tu hai scoperto, magari il primo startup, come si dice in comunicazione, è stato con James Brown, quello cantai napoletano, certo, quello poi, americano, ed è nata questa voglia. E poi c'è voglia. Stato questo mio desiderio di avere un suono, diciamo, proprio mio da portare nel mondo. Quindi ho recuperato fortemente la lingua dialettale come certo. simbolo di appartenenza, la scala napoletana, che è proprio una cosa importante, che quella di quarta aumentata, la minore, che riesce ad identificarci. Spiegamela un attimo, in maniera, io sono un profano. Fai una scala minore. Questa è di quarta aumentata, invece minore. Bravissimo. Tu riesci subito a sentire questo suono. E quindi io, diciamo, ho voluto fare una sorta di disamericanizzazione del linguaggio. Ho detto, tutto quello che abbiamo imparato, cerchiamo di, però, di filtrarlo attraverso la nostra cultura, la nostra conoscenza, per una contaminazione felice. Quindi recuperare fortemente la nostra identità e accogliere le conoscenze e i suoni del mondo. Infatti Moricante, o Cantè come si pronuncia, Moricante ha detto che tu eri African oriented, cioè, e allora ha deciso di lavorare insieme a te, esatto. Ed è nato un prodotto lo stesso, meraviglioso. Poi la stessa cosa è capitata con il discorso del genere, no? Certo. Ho detto, io voglio recuperare tutte le forme, ricreare nuove forme che in realtà non hanno forma, che sarebbe un gioco, potrebbe essere un gioco di parola, ma non lo è. Perché non scrivere, per esempio, per orchestra sinfonica? Perché non scrivere per coro polifonico? Perché secondo me tu è anche più importante. Di 300 opere, sì, sì. Ma 300 opere, cioè, neanche Mozart, cioè quanto ci hai messo? Tu le butti giù, poi per quartetto ci metti però, anni e anni, solo per, che alla sì. fortuna, lui aveva la fortuna di avere una bella copia naturale, esatto. Lui scriveva direttamente, tu scrivi pure copia. Male, io scrivo male, però riusciamo almeno a scrivere con il computer, scrivere almeno la bella copia, che è importantissima. Con Pippo Del Bono poi con una Pippo collaborazione, abbiamo fatto un'opera straordinaria, Vangelo. Che è Vangelo, che è partita con il teatro di Zagabria, anche qui mi un bel piaceva binomio, questa eh. cosa, insomma, ho detto, spero di diventare io il mio genere, insomma. Io il mio genere, bellissimo. Però prima ho parlato di questa inizio di fusione straordinaria con Moricante, che l'album era, se non sbaglio, Oissa. Oissa. Non vorrei sbagliare la pronuncia, qui sono circondato. Attenzione. Il brano era Mano e Mano. Mano e Mano. E io me lo ascolterei un attimo. Vai, Moricante insieme al grande Enzo Avitabile. Stella guardo moon, e dindo moon si perde, e chi è tempesta in notte, ma ratti vento, e la confonde panna, e arrugginisce cannone, nevero deserto, sappi rove subi, mano e mano, in da sto fritto che fa, o viente che bene, o viente che fa, mano e mano, sottano o viene per sempre, o viene mai più. Caro migna san cono, che le migna san cono, lulu balu migna san cono. Caro migna san cono, che le migna san cono, tini balu migna san cono. Dununya, dununya, dununya, me kilendi. Questa era Mano e Mano, l'album era Issa. Tu hai fatto 17 album, se non sbaglio, in sì. studio. Live no, vero? Non abbiamo fatto mai dischi live. Neanche un greatest hits è uscito tuo ufficiale. Mai. Cioè, tu hai fatto 17 album veri, da Avitabile fino all'Otto sì, Infinito, sì. con queste grandissime collaborazioni che avremo anche durante la nostra trasmissione. Ci saranno anche l'amico Caparezza, verrà Elena Ledda, eccetera. E anche il cinema, adesso non abbiamo nessuno al telefono, chiedo conferma alla redazione, abbiamo al blocco seguente. Barona, voi che avete qui davanti un maestro, un punto di riferimento, volete fare una domanda? Ma sarebbe tantissimo da chiedere. Fondamentalmente l'idea che ho io è noi vediamo le altre realtà musicali come qualcosa che può ispirare il nostro mondo, ma nel mondo come vedono Napoli? Cioè, noi che cosa siamo per le altre culture? Siamo un punto di riferimento anche noi musicalmente? Nella world music, diciamo, noi per esempio con il mio produttore Andrea Ragusa, con cui ho cominciato nel 2000 questo percorso, abbiamo fatto per esempio tutti i WOMAD di Peter Gabriel, per esempio tutti i festival di world music al mondo, abbiamo fatto world. Tutti i continenti, sì. Quindi quella è una perché Napoli, sai dire Napoli è mille facce, uno nessuno 100.000, sì, sì, certo. Quindi dipende dalla Napoli, sì. che insomma approcci. Quella ufficiale della musica nel mondo è abbastanza riconosciuta, perché siamo riusciti con questo suono, diciamo, che è un suono che si muove nella tradizione profondamente, nel rispetto di un'altra grande tradizione, che è quella del Settecento napoletano, che è importantissimo, certo, l'opera buffa, di cui voi siete anche, certo, in un certo senso alfieri, no? Perché, certo, la gente non sa che quegli intrecci sono diciamo, arrivano da Paisiello, Cimarosa, certo, Pergolesi, certo, poi magari risentono Swingati, certo, e sembra... non danno attenzione a quello che fa. La matrice è quella del Settecento, il canto a canone. Dove Napoli era la capitale d'Europa in quel momento, la scuola napoletana. C'è quindi fortemente nel mondo questa collocazione di musica del mondo, una delle musiche del mondo. Napoli oggi è una delle musiche del mondo. E questo ci fa grande onore, anche grazie a te che sei un alfiere. Grazie. Adesso, Vincenzo, io voglio farti sentire un brano. Tu mi devi dire che cosa significa per te questo brano. Sto vicinire non fornisce mai, è puro solo basso se ne fu, ma tu stai la tua rosa preta e stella, Carmela. Tu chiami sul sinistro stui non fornisce mai, eppure solo pass e se ne fu. Ma tu stai la tua rosa predestina, Carmela. Questo, ecco, è Sergio Bruni. Carmela. Sergio Bruni è stato per me molto importante. Dovete pensare, la prima volta che io facevo un disco, avevo più o meno 16 anni, e c'era questa casa discografica, era la King Universal di Aurelio Firro. E pensate che avevo un coach vocal che a quei tempi non sapevamo cos'era, era Mario Moselli, il cantante degli Showmen, come no? Che mi conduceva come un suo fratello più piccolo. E ricordo che in quel periodo la signora Fir mi diede l'incarico di portare una... Voi scusate, sono distaccato. No, di portare. Pensiamo io. Oh, quando hanno detto finalmente Pino ha trovato degli ospiti che ti fanno sta zitto. Cioè, se sto zitto. Di portare questa lettera in una casa napoletana. Con questa Vespa mi accompagnò un pick up della casa discografica. Io faccio queste 10, 15, 20 scale. Si apre la porta. Sergio Bruni. Il karma è sempre quello delle Bermude, pure Sergio Bruni. Quei Bermuda. Tina Turner no, però no. Tina Turner. No, Sergio Bruni. Pensate, era casa sua. E dietro io vedevo lui vestito di bianco, questo pulcinello enorme dietro. Lei stai scioccato. Certo. Sergio Bruni. Oltretutto, Sergio Bruni, il primo cantante che ho ascoltato a casa mia era Sergio Bruni. Però papà, in realtà era papà che era faceva il playback di Sergio Bruni benissimo. Pensate che io dopo tempo ho scoperto che non era papà. Beh, un genio. La prima drag queen napoletana. Ho detto questo, cioè, capì che papà faceva il playback di Sergio Bruni benissimo. No, quindi l'ho visto e poi c'era tutta la mia vita che girava dentro. Lui ha fatto una cosa, però, perché lui dava il voi a tutti, pure ai bambini. Ah, ma che Napoli è bella anche per voi. Ha messo la mano in tasca, perché sì, è proprio a scena, e mi ha dato Amazzetta. Amancetta, là si dice Amazzetta. Amazzetta. Dopo Amazzetta è diventato sinonimo di qualcosa. Sinonimo di altro. Non era proprio Amazzetta, la mancetta, la mancia, la paletta. No, io ho detto no maestro, no assolutamente, io sono un ragazzo, sono un musicista, suono il sassofono, canto, anzi maestro mi accingo a fare il mio primo disco, dissi io. E non sapevo come svoltare da quell'imbarazzo, come finirla, dissi anzi se mi date qualche consiglio. Certo. Lui mi disse: sentite, prima di cantare capite bene le parole che dovete cantare. Se cantate bene le parole, siete un buon attore. Se cantate bene le note, siete un buono cantante. Se cantate buono tutte e due cose, siete un artista. Che bella cosa! Beh, che incontro! Questo è bello. Allora, quando ho fatto Napoletana, con questo disco con cui ho vinto la mia prima targa Tenco, sì, io decisi di fare un omaggio a Sergio Bruni. E quindi poi, oltre a Sergio Bruni, a papà, che era il mio primo Sergio Bruni. Quello vero. Quello originale. Ma lei parla come mio padre. Esatto. Gli hai detto, lei conosce a mio padre. Esatto. No, bellissima questa cosa. Dobbiamo andare in pubblicità. Va bene, restate con noi. È la pausa lunga questa? No, è quella corta, perché poi abbiamo un collegamento con un altro grande collaboratore, protagonista, artista dell'ultimo album di Enzo Avitabile. A tra pochissimo con Voice Anatomy. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Voice Anatomy. Come promesso, tornati subito, 15, 46, 44, 45, 46 secondi, Enzo Avitabile, straordinario. L'ultimo concerto, sei in giro adesso, Enzo? Domani vado a Bratislava. Ecco, vedi. Domani. Ah, beh, tu sei veramente real world. Sì, real world. Tu sei stato anche candidato, hai detto, quattro volte al BBC. Sì, Awards. BBC Awards, quello internazionale. Ma sì, ma amore mio, sei... Allora, io quando ho visto su una cosa mi sono stupito. Abbiamo sono fatto arrabbiato. Due tournée in America. Non ho dubbi, tu sei stato veramente ovunque, inutile dirlo, anzi è utile dirlo, perché tante volte noi portiamo la nostra italianità, napoletanità, quella che sia, in tutto il mondo, ma non come i giullari, come dei veri artisti. Ci invidiano tutti, ci dimentichiamo ogni tanto chi siamo, quanto siamo bravi e come siamo rappresentati bene all'estero. Cioè, Enzo viene rincorso, non è che lui che chiama, viene chiamato, che è diverso, è lui che valorizza il gruppo. Allora, questa cosa, questa mia rabbia di quel giorno e entusiasmo e gioia è stato quando ho visto un signore che si chiama Jonathan Demme, regista del Silenzio degli Innocenti, regista di Philadelphia, regista di mille film, un premio Oscar, che firma la regia su un docu-fiction, un documentario, un docu-film sulla vita, sull'ultimo album di Enzo Avitabile. Ora, dovevamo aspettare Jonathan Demme. Per carità, bene, ben venga, un nome altisonante, tridimensionale, che ti porta ai festival, Festival di Venezia. Ma lì mi sono arrabbiato un po', ho detto, ma è mio Enzo, Enzo è mio. Perché dobbiamo aspettare che Massimo Troisi muoia perché l'America lo abbracci e lo faccia proprio? Cioè, Massimo Troisi è diventato un fenomeno americano, perché, ah sì, grande attore, è morto, si è immolato ed è diventato tridimensionale. Per loro no, è cosa nostra. Dobbiamo esaltare gli grandi artisti che abbiamo qua. Noi abbiamo un know-how artistico gigantesco in questa nazione, abbiamo il 78% del patrimonio architettonico e letterario mondiale, abbiamo la musica rappresentata in tutto il mondo, l'abbiamo insegnata a tutti. E allora dobbiamo aspettare Jonathan Demme per raccontare Enzo Avitabile. Voglio raccontarlo tutti i giorni. Adesso ci sarà un altro documentario meraviglioso su Sky Arte, se non sbaglio, che parlerà ancora di te in altro modo, ovviamente. Ma io questo è meraviglioso. Io voglio sentirmi un altro pezzo, perché abbiamo aperto tutto quale song e creature. Tratto da questo doppio album meraviglioso che è Music Life, ovviamente. Ce n'è un'altra che abbiamo preparato insieme al mio amico Alessandro, grande tecnico del suono, quale abbiamo preparato, ce l'ho, mi piace. Noi e l'acqua, noi e l'acqua con i Dir. Ascoltate e sognate. Via l'acqua siamo una cosa, ma mi scigliuto deserto, viaggiando rinda fammi coppe giù. A domandano circa, quale canzone canta, ogni desiderio è una tribù, ogni corda una preghiera, briaca senza via, sazio senza magna, cento luna cento cieli. Sotto i pezzi a scavare. Nell'acqua siamo una cosa, ma quando il mare è troppo corto, l'allungiamo con l'anima, spiga e vento cavare. Nu carichino in fronte, con due occhi africani, crescendo in una direzione, l'orizzonte smano si mette in mano. Briaco senza via. Ubriaco senza via. Sazio senza magna. Cento luna cento cieli. Questa è musica vera. Sotto i pezzi a scavare. Senti come poi missa con l'altra lingua, sembra la stessa. Verdi è. Oh, è verde sonnata. Canta con me. Verdi è verde sonnata. Canta per me, fra. Canta per me. Tutto in diretta, poi era. Guri fleli, esirifsi, ovetu derdenen. Che meraviglia! Bello, che meraviglia! Brividi, ma dall'altra parte del filo c'è un'altra grandissima artista della, della world music, signori, un'altra collaborazione straordinaria, Elena Ledda. Pronto, Elena? Eccomi. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao Elena. Ciao Elena. Da dove ci stai chiamando? Dove sei? Nella tua terra, Elena? Sì, sono a casa mia, sono nel profondo sud della Sardegna. Dove precisamente, Elena? Io abito a Quartuccio, vicino a Cagliari, diciamo Cagliari. Diciamo Cagliari. No, diciamo Quartuccio. No, diciamo Quartuccio, io dico sempre, quando sto in televisione faccio il presentatore ogni tanto, sì, e mi capita di presentare delle persone, dico no, sono Salerno, ma no, di dove? Devi dire, non so, Vibo Valentia, dillo. Ma sai cos'è che Quartuccio. Mi fa piacere dire Quartuccio perché esatto. È il mio posto dove abito, non sono nata però siccome a fasi alterne siamo una volta Comune di Cagliari, ora siamo di nuovo area metropolitana di Cagliari, si confondono le idee, però io, a me piace dire che sono di Quartuccio. Fai bene. Elena, sentiamo questo, un pezzettino di questo Nisciuno Sap, che sei un'altra Nisciuno grande... Sap. Sape più, c'è niente da pietà, nessuno sa, nessuno sa. No, accendo un tene voce, quando è cane, quando è cane. Cara ma sui, lo mondo, nasce nato mondo, prana mullica, piezze te. Nasce nata vita, modo di. A sammuta d'abbandonas, ai si spetti sovrescendi, ai sasciusi scuri gendi, pensamento chi coronas, un dos negri cui indorau, nui steare stei dirias. Pranto se pregatoria sa su pronti su canzau. Beh, no? Buona signora. Anche qui è multietnica la storia, signora. Sì, sì. La signora della world music. Beh, il sardo è una lingua pazzesca, una poema, questa voce sì, certo. Che fa diventare il suono parole, la parola suono, proprio... Grazie, così ti ha convinto, così no, così, non c'è stato bisogno. No, ma loro ce l'hanno, poi c'è Paolo, è lo stesso, c'è Paolo Fresu, che il suono diventa parola, diventa racconto. Paolo pure senza testo, anche lui sardo, suono. Fresu, immagino. Sì, certo. Sì, sì, come no, certo che è sardo, Paolo di Berchita. Senti come c'è l'orgoglio sardo. È certo, siamo noi di Quartuccio. No, lui è di Paolo di Berchita, come si sanno, dal festival di Berchita, insomma. Sì. Sassarese, mi dice qui, sì, di origine. Sì, vicino, diciamo, vicino Sassari. Che, provincia di Sassari. Più vicino, in provincia di Olbia Tempio, credo sia ora, però... Sì. Ci ho solo giocato a pallone a Tempio e a Iglesias, se conosco solo Tempio perché ci ho giocato quando giocavo da piccolo in Serie D. Elena, grazie di questa tua bellissima testimonianza, di questa testimonianza che è poi in questo bellissimo album che è Lotto Infinito, dove non finiscono le collaborazioni, non finisco mai. Complimenti a te per portare in alto la nostra nazione a livello artistico e musicale. Nel grazie mondo. Nel grazie mondo, Elena, nel mondo. Un bacio, grazie Elena, che ciao, non ciao. Mi ha dovuto convincere, ma appena chiamato siamo grazie, corsi subito, grazie, con felicità. Ciao, veniamo a mangiare da te, Elena, sicuro, vi aspetto. Aiu. Ciao Elena, ti vogliamo ciao, bene ciao, un bacio, ciao. Grazie, vogliamo bene anche a voi. Ci salutiamo per un po' più, c'è il GR se non sbaglio adesso, 10 minuti, e torniamo sempre con Enza Vitabile per stare almeno un altro quarto d'ora insieme. A tra poco, Voice Anatomy, grazie. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, vabbè dai ragazzi, ci sta dopo due ore e un quarto che uno parla in qualche modo, poi ho cantato, sembravo insavitabile, vi siete resi conto? Ma come lo imiti bene? Sono stato bravissimo, la gente ha creduto fino adesso di avere insavitabile, invece non c'è, sentite come lo faccio bene, dirò signori e signori, buonasera e bentornati a Voice Anatomy, lo dirò con la voce di insavitabile. Signore e signori, buonasera, bentornati a Voice Anatomy. Avete sentito? Uguale. Sembra insavitabile. No, dai, non sei uguale. Sì, sì, ma come dall'altra parte adesso del cavo telefonico c'è un altro grandissimo testimone di questo straordinario album di grandi collaborazioni, un altro grandissimo artista, ne hai scovati veramente bene, bravi. Questa è una bomba. Questo è bravo pure questo. Sì, senza sì, nulla togliere a nessun altro dell'album, insomma, meno male dentro c'è anche ora De Gregori, Renato sì, Zero sì, che canta in napoletano. Ma lui è Caparezza, Capa. Ciao a tutti, ciao. Come ciao, stai? Ciao. Dove sei in questo momento, Caparezza? Sono a Molfetta, che è la città dove vivo. A Molfetta, come sì, si pronuncia? Caparezza, Caparezza, sai, essendo un doppiatore c'è, allora, diciamo, si dice... che Molfetta c'ha le chiuse, no? Quindi teoricamente Molfetta è appunto è Molfetta con la E di, con la E. E la Z Caparezza. Caparezza, Caparezza. Sì, tende a chiudersi. Caparezza tende a chiudersi nel nome, tende ad aprirsi. No? Come uomo, come essere umano tende ad aprirsi invece. Com'è successo? Ti ha chiamato a Molfetta Enzo e ti ha detto ti sì, voglio. Enzo è incredibile perché Enzo è veramente una persona di cuore. Sì. Quel cuore proprio esce dalla cornetta, perché poi in realtà io ero in un periodo in cui cercavo insomma, di defilarmi, no? Non mi sentivo, cioè io a volte diciamo che come carattere tendo un attimo a chiuderti come lei. Sì, sono un po' nella penombra o nell'ombra per un bel po' di tempo, è il mio modo un po' per scrollarmi di dosso tutte le cose relative alla musica e cercare di andare avanti e ricominciare. Quindi ero esattamente in un periodo di questo tipo, quindi diciamo che tendevo a dire no a tutti, pur col beneficio del dubbio, però Enzo, a parte che veramente lo stimo tantissimo come artista, ed è anche una persona che è riuscita in qualche modo a coinvolgermi passando proprio attraverso il dialogo, è veramente diciamo, prima ancora di fare il featuring, sono contento di averlo fatto con una bella persona, ecco, prima ancora di concretizzare poi il brano. Devo dire che questo è il leitmotiv di questa avventura oggi con Enzo. Si parla di cuore, si parla di sogni e si parla di persone che vogliono raggiungerlo insieme. No, io con Michele sono stato strafelice. Oh, Michele, ecco. Sì, Michele, scusate, Michele Caparizzi. Sono Michele. Strafelice perché io da anni sognavo questo incontro. Io adoro Michele, la sua poesia, e poi mi fa impazzire come si muove con il ritmo con le parole, ma con questi significati molto molto molto anche lui fa parte profondi. Di una terra, quindi questa cosa mi ha sempre letteralmente proprio ipnotizzato, no? Nel senso che quando ascolto le sue cose mi riesco proprio a non staccarmi dalle cose che sta facendo. Esatto, emozione per diverte. Me, sì, per me emozione è stato diverte. Proprio felicità, ma, e poi un grande onore per me. Dico la io mia. Ancora sorriso, se non avete mai sentito Kevin Spacey, ascoltate. È proprio quello che noi come doppiatori dobbiamo firmare a fine di ogni doppiaggio, di non rivelare niente di quello che abbiamo doppiato. Tu l'hai fatto. In sì, tutto. Sì, quello è stato, diciamo, un gioco. Beh, un gioco bellissimo, musicalmente alto. Un modo per farmi odiare seriamente. Sì. Sai, che riveli i finali dei film. Esatto. Tu puoi prendere tutte le posizioni politiche, sociali, esatto, del mondo, però se riveli un finale di un film sei finito. Esatto. Ho tentato quindi di porre fine alla mia carriera con quel pezzo. Hai tentato di non andare nell'ombra eterna da quel punto di vista. Però i film, diciamo, che erano ormai consolidati, ti sei salvato, sì, in qualche modo. Usavo anch'io questo alibi. Questa canzone è Amma, che vuol dire amma, dobbiamo amma cagnà. Ce l'ascoltiamo, non è amma, non è il bagno turco. Amma cagnà, eccolo. Non essere capito, e chi si scandalizza è banale. Confuso sulle aper, a riconosce cose. Confuso sulle aper, a riconosce cose. Ogni uomo nasce libero e va alla deve diritto e dignità. Montagna con montagna non si incontrano mai. Montagna con montagna non si incontrano mai. E amma, scorre più nella vena forte la morte che anela nella notte quando gli incubi incubano parole mute del rabonde sul dolore della fronte. Mi sveglio come non c'è nessuno, sì, meglio, a parte la mia paura, intendo, io non ho l'anima pura, la invento, so che l'amore è libertà, ma in una vita dura cosa farne, meglio la dittatura della carne. C'è chi trova sublime partire da grande, penso che sia meglio partire ed andarmene. Peccato, ne seguo la scia come una cometa, fino a che viene lontano anacoreta, voglio solo rimanere un bravo poeta. Amma, amma, amaca, amaca, amacagna. Che bomba, Michele, eh? Ah, mamma, sembri uno dei Bone Thugs and Harmony, santa miseria, per come parli veloce. È una citazione abbastanza cool. Lo so, chi la prende, la prende. E loro andavano in extra beat. Assolutamente. Sì, la famiglia Bone, devo dire che in quello è fortissima. Beh, no, complimenti, è bellissimo. Io volevo ringraziare Enzo per i complimenti. Volevo dire che a proposito di ipnosi, comunque è quello che accade anche quando va Enzo sul palco. Esatto. Cioè Enzo veramente induce quasi all'ipnosi, perché non riesce a staccare gli occhi da quello che succede sul palco. Lui usa moltissimo, almeno coi Bottari, la tecnica del loop, che sì, è vero. Che è una tecnica mistica in fondo. È vero, è un acido. I mantra, i rosari, sì, i giri di loop, ed è qualcosa che veramente ti cattura. E poi noi due abbiamo un segreto per quanto riguarda questo pezzo, che però non abbiamo dichiarato. No, lo si può dire. In realtà è un brano dedicato a Pierpaolo Pasolini. Urliamolo alla grande. Amma, fa qualcosa. Va bene, Michele, Michele Caparezza, dai, chiamami Insegno, chiama Abitabile, chiamaci per cognome. Michele, ti ringraziamo davvero della tua testimonianza. Grazie di cuore. Il mio piacere sarà cercare di averti personalmente in questa trasmissione che parla di voce, che parla di musica, che parla di tutto quello, si intitola Voice Anatomy, per cui puoi immaginare. Non in diretta da Molfetta, però devi venire qua. Dai, va bene. Devi venire qui. Michele, bocca al lupo di tutto. Grazie per quello che ci regali. Un abbraccio. Ciao. Voi restate con noi, restiamo ancora un altro blocco insieme all'amico Enzo Avidabile con altri ospiti. Grazie ancora ai Barauna per essere qui. E con me ci sarà fra poco il produttore di questa grande operazione mondiale di Harry Potter, il primo film con 70 elementi d'orchestra in scena. E poi avremo anche la possibilità di ascoltare la voce ufficiale di Harry Potter stesso, che è Alessio Puccio. A tra pochissimo con Voice Anatomy. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracomitalia per competere nel mondo. Vi presenta Voice Anatomy. Sono passate soltanto 2 ore e un quarto e siamo qui ancora in compagnia, abbiamo tantissimo da dire con Enzo Avitabile, gli amici dei Barahona che spesso mi accompagnano, non soltanto qui, ma anche all'ospedale a fare le analisi, insomma tutte quelle cose che servono nella vita di ogni individuo. Intanto, come un buon mix che riserva la giusta trasmissione osmotica, ci ha raggiunto la voce ufficiale del Harry Potter. Sei cresciuto con lui, Alessio Buccio. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Adesso c'è un inizio di prostatite anche tu, come lui, cioè. Diciamo che il tempo è passato, ahimè, anche per me, insomma, passa. Quanti passa anni avevi quando hai cominciato a fare Harry Potter? Allora, il primo film uscì nel 2001, una data abbastanza... Quanti anni hai tu? 30. Ma non dico così, perché sono Enzo, se andiamo a ammazzare, non ho capito. 30. E il primo film avevo 15 anni, che era il 2001. Ti aspettavi? Assolutamente no, devo essere sincero. Adesso finalmente posso essere sincero. Allora, il provino che feci fu per me un provino, come tu ben sai, Pino, insomma, un provino come un altro, un film. Però poi l'hai portato a casa. Ma di questo ne parliamo dopo, Esattamente, aspetta, sì, basta. Era un inizio introduttivo, sì, perché lui non ha fatto la colonna sonora di Harry Potter, l'ha fatta John Williams, insomma. Mi fermo, ok. Perché abbiamo dall'altra parte del cavo telefonico un grandissimo regista con il quale tu hai collaborato per la colonna sonora proprio del film Indivisibili, un film straordinario, veramente delicato, di queste due gemelle siamesi, eccetera. Però abbiamo il testimonial originale, che è De Angelis. Edoardo De Angelis, ci sei? Ciao, buona domenica. Ciao Edoardo, dove ti abbiamo disturbato, Edoardo? Dove sei? A casa, tranquillamente. Dove sei? Finalmente, a Napoli. Ecco, un'altra persona extra, oggi Napoli c'è questo luogo comune che ci... Sei napoletano, Edoardo? Ma io sono veramente di Portici, che è un comune del Sud, che quando ci vivevo era il più sovrappopolato del mondo dopo Hong Kong. Ma poi sono... Una densità di 10.000 persone al metro quadro. Ma infatti poi siamo presto emigrati a nord, a Caserta. Esatto, finalmente. 20 km. Esatto, si apre sulla tangenziale e via. Esatto. Edoardo, voi vi conoscevate da prima, questa non è la tua prima colonna sonora, o è la prima colonna sonora che fai per il cinema? Perché per il teatro, per sicuramente sì, è lirico, eccetera, eccetera, ma per il cinema... Sì, è la prima colonna sonora, anche se avevamo fatto un altro, avevano utilizzato le mie musiche per un film che era Incantesimo Napoletano, sì, di cui era interprete Carlo Buccirus. Carino. Però questo invece è stato fatto insieme con Edoardo, nel senso che ho partecipato proprio dall'inizio a questo progetto. Una bella avventura. Che hai poi usato, sei andato su degli strumenti etnici, vedi? Sì, hai usato una colonna sonora, sì, la pentarpa è una colonna sonora minimale, cioè essenziale, perché io, come ho detto, come ho dichiarato, questo è un film di Edoardo tanto calato nella realtà che io avrei potuto solo sbagliare le musiche, nel senso che bastava solo restare autentici, restare minimali nelle cose, senza, diciamo, esagerare, e secondo me si accompagnavano le scene. Tu, Edoardo, gliel'hai fatto vedere alla fine, gliel'hai parlato ovviamente all'inizio, le musiche sono nate in parallelo, oppure alla fine, in post-produzione, vi siete messi lì e avete accompagnato il film? Com'è nato, Edoardo? Ma prima di tutto c'è da dire che ho cercato Enzo perché il suo mondo musicale lo conoscevo da anni e mi accompagnava, e per questo racconto in particolare il suo mondo era molto adatto, e insieme pochi elementi musicali, ma che rappresentassero gli elementi di questo racconto. Quindi c'è una base molto terrena rappresentata dai ritmi delle percussioni, dei bottari di Portico, che collaborano da molti anni con Enzo. Sì, ha fatto pure un bel album insieme. Sì, e poi c'è questa dimensione invece aerea rappresentata dal suo saxello, che rimanda a qualcosa, a qualche significato che non è qui e non è adesso. Bene, poi un film, se ne è parlato molto, Edoardo, forse non è stato vistissimo come tutti i film interessanti e difficili da seguire, perché poi tu sai meglio di me, io lo vivo passivamente come doppiatore per quanto riguarda il cinema internazionale, si dà enorme spazio sempre ai film internazionali, non c'è una legge che regola come in Francia, che dà la possibilità al cinema francese di esaltarsi, perché il 60% devono essere opere francesi, e così si rischia magari, no? Però di sano protezionismo non sarebbe male, ma noi non dobbiamo guardare i numeri, noi dobbiamo guardare la qualità. La qualità è enorme, per questo siamo qui e ne stiamo parlando. La qualità è veramente enorme e se ne parla, ma è giusto che la gente non solo ne senta parlare, ma che abbia la possibilità di goderne appieno, soprattutto in un film così di grande sensibilità e di un argomento così delicato e importante come questo, insomma. E poi diciamo sono venute alla luce queste due ragazze che sono straordinarie, sì. No? Marianne e Angela Fontana. No, ma un lavoro importantissimo. Secondo me hanno un futuro proprio nel cinema, anche nella musica forse. È tutto direttamente proporzionale, sì. Dalla musica, il film, la sceneggiatura, sì. Le immagini, la fotografia. No, vi consiglio di farlo vostro in qualche modo, appena uscirà magari in DVD o in Blu-ray, eccetera. Soprattutto grazie di questo entusiasmo. Ma no, assoluto, io ho avuto la fortuna di vederlo, perché cerco di vedere tutto, perché mi arricchisco così, rubo guardando poi, no? E imparo anche tantissimo. Edoardo, grazie davvero di questa tua bellissima testimonianza, in bocca al lupo per la tua carriera. Grazie a voi. Grazie a te, Edoardo. Se vuoi far recitare Enzo Avitabile, lo doppio io alla fine del film, tranquillo. lo salviamo. Se non è film napoletano, lo salvo io. Se non è napoletano, se no, qualcun altro. Ciao, Edoardo. Grazie. Un abbraccio, forte. Grazie, in bocca al lupo. Senti, c'è un'altra bella musica, a me ha entusiasmato, di un altro album bellissimo, che è Black Tarantella, perché mi è piaciuta la tua definizione, perché più nero da mezzanotte non può venire, cioè più scuro dello scuro proprio. Sì, alla black sta pure questa sinonimia che viene spesso usata nei nostri dialetti, no? Quindi black, più nero da mezzanotte non può venire. E c'è un pezzo fra i tanti, anche in quest'album, di grandi collaborazioni, insieme a Battiato, che lui canta in siciliano. Invece, in siciliano, no? Sì. Ma pure Guccini canta in pavanese. Pure quello, cioè, ma non c'è avessimo tempo. Allora, sono due dischi. Black Tarantella è un dialogo nelle lingue dialettali. Invece questo, Lotta Infinita, è proprio voluto, come diciamo, io spesso parlo con Francesco De Gregori, e lui che poi mi dà pure dei consigli, degli input. È un po' un rapporto tra la musica napoletana e la musica italiana, e noi siamo arrivati a questa conclusione, che la musica napoletana è italiana e la musica italiana è napoletana, è quindi chiudiamo una volta per tutte questa... È come il doppiaggio, serve, basta. Quanto possiamo stare ancora insieme? 3 minuti insieme, allora lasciamo 30 secondi questo pezzo e poi riparliamo sopra per dare i degni saluti. Io Marco se facile dopo show. No e no. Un vento muove gli alberi e i fogli cascono in terra. A pioggia fa ricreare i campi. No, non è così esordato. Un palazzo è stordito da fuoco, è una cannella che fa più stelle in luna, e la sfortuna che diventa fortuna, e la notte che fa giorno, e la voce che ti parla in fondo, è come nascere dopo che si innamora, e l'addore da qualcosa è cagnata. No, e allora era giusto chiudere in bellezza questa bella monografia su un artista vivente che è Enzo Avitabile. Dall'altra parte del cavo c'è una grande interprete, una grande cantante, una cara amica, me lo permetto, che è Paola Turci. Ciao Paola! Ciao a tutti, ciao Paola, buona grazie, domenica. Ciao. Allora, abbiamo sentito tutti di più, abbiamo suonato in diretta, cantato, eccetera. Ma voi due non avete ancora cantato insieme, però, Paola? Digliela, Kill. A Paolese, glielo dici con sta napoletano qua, è un macello, si sente che... No, noi ci conosciamo da anni. E allora che vogliamo fare? Volevo chiudere con lei proprio per chiarire questo momento. A parte momento. Che ci saranno altri dischi B, ma anche suoi. Bello, è stata una trasmissione dove l'amore ha pervaso il sogno, è stato proprio il massimo comune divisore. Adesso c'è questa diatriba, dobbiamo lasciare aperta sta storia. Noi non l'abbiamo svelato, ma già abbiamo cominciato una sorta di ma Paola, di scambio, aspetta di collaborazione. Un figlio da Enza Vitabile. Che cosa? Aspetti un figlio da Enza Vitabile. Questo no, è, quello. Beh, è più o meno un figlio, sì, è un parto anche quello. E quelli di Enzo sono tutti belli. Grazie. belli, meravigliosi. Beh, questo disco io mi sono proprio, come si dice, ricreata in napoletano, si è ricreata, però mi sono squagliata quando l'ho sentito. Paolina, nel mio prossimo disco ci sarà Paolo. Allora aspetta, dentro questo disco manchiamo io, te, Barry White e la Berti, poi ci stanno tutti. E allora io ho detto, dobbiamo telefono a Paolina, chiudiamo con lei, perché è giusto che sia così. Paolo, siccome tu sei di Roma e ti ho già incontrato, vieni ospite a Voice Anatomy, devi venire perché ti obbligo. Perché non puoi mancare. Con piacere, sarai coercizzata. Se no, la tua carriera finisce. Non ti faccio cantare, non più con Enzo, con nessuno. E dovete telefonarmi. E telefoniamo a me. No, se canti con me è finita davvero la carriera, Paolina. No, lascia stare. Esatto. Paola, ti abbracciamo forte. Grazie per questo saluto. Un bacio, grazie. Ciao Paola, grazie. Ciao. Io, Enzo, salutarti con un semplice ciao è la cosa più giusta, secondo me. Grazie a te di tutto. Io sono l'unico che mette mille parole inutili al posto di un semplice grazie. No, per me cui è stata una cosa bellissima, straordinaria, vera, nel senso che sono cose che non ti capitano sempre, quindi io ti ringrazio. Ringrazio tutti e ringrazio Barone, che è un gruppo straordinario. E loro anche faranno parte del tuo disco. L'unico che non farà parte del tuo disco sarò io, ho capito. Signori. No, tu doppierai la mia voce. La tua voce in un film, perché te si può sentire in italiano. Va bene, allora. Signori, grazie, rimanete con noi perché continuiamo con il nostro amico Harry Potter, questo grandissimo evento internazionale. Lotto Infinito è l'album meraviglioso di Enzo Vitabile, un uomo straordinario, lui che è tutto il mondo e tutti i popoli. A tra poco. Voice Anatomy. Eccoci, Voice Anatomy, 16:33 primi e 14 secondi, finalmente è arrivato il momento di Alessio Puccio, la voce, non solo, ma vabbè, ci devi stare, il fatto che tu sei ufficialmente Daniel Radcliffe, ci devi stare, come a me mi dicono il signore da Anelli, ma ho fatti altri 200, però non ormai... Non tanto Daniel Radcliffe quanto Harry Potter, sì, perché lui a me insomma... non è simpaticissimo proprio, Ma lui ho imparato ad amarlo. Sì, certo. L'ho fatto anche in film molto carini, molto simpatici. Sì, ha fatto altri film. Però sai, vedi il bambino occhialetto che sa tutto, che scompare, sì, appare, vero, che rompe le palle a tutti, gli succede mai niente e morono l'altro. Però no, ci sta, dai, ci sta. Però vicino a te c'è Marco Patrignani, che è un grandissimo produttore musicale da una famiglia di grandissimi produttori musicali. Grazie Pino, troppo gentile. Papà, fratello e quant'altro, bene o male da te hanno realizzato i propri sogni, gente come Ennio Morricone e non solo, insomma, lì agli studi della Forum credo ci siano passati tutti i più grandi direttori d'orchestra e le più grandi produzioni mondiali sono state suonate lì da te. È vero, un grande onore, una grande fortuna. Io devo dire solo una piccola cosa a proposito del grande papà, che non c'è più, di Marco, che era un carissimo amico, ma un grande professionista, che mi fece il provino quando io doppiai Pocahontas. C'era un momento che lui cantava, ovviamente hanno fatto il provino anche a me per cantare, e papà di Marco mi ha detto: Pino, dai, ci stanno gli americani, mi raccomando, io ero un mese che mi preparavo su sta canzone, comincio a cantare, mi viene vicino il dottor Patrignani e mi dice: Api, più che Pocahontas mi sembravi Pocacantas, cazzo. Così io non ho vinto il provino di Pocahontas. L'ho fatto come voce, ho fatto Joe Smith, ma non ho cantato. Papà, è stato delizioso il riso, ancora ce l'ho oggi. Vabbè, ma tu ti sei avventurato in questa... Facciamo sentire lo spot un attimo di Harry Potter, non so come è nominato. Sentiamolo. Harry Potter e la pietra filosofale in concerto. Ammirerete uno tra i film più amati come non lo avete mai visto. Con un'orchestra sinfonica che esegue dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di John Williams e l'intero film proiettato sul grande schermo. Non mancare a questo magico evento live di Harry Potter e la pietra filosofale in concerto. Il 2, il 3 e il 4 dicembre all'Auditorium Conciliazione. Beh, che bella voce. Che voce, ragazzi. Tu c'hai gli amici, che voce. E certo. Solo la tua voce merita. Chiedete quanto mi ha dato. E poi merita tutto, ma tu non hai pensato di non darmi niente. Mai l'ho fatto con tutto il cuore. No, sei impagabile. Ma che è quello? Ma se così non, sei non ci sarebbe stata cifra, Bino. Questa è la scusa che mettono in ma che vuoi da sta voce? Niente. C'ha ragione. È niente, impagabile. È impagabile. Però l'operazione è incredibile. Sì, è bellissima idea. Dove nasce questa? Nei paesi anglosassoni, Inghilterra hanno fatto. Più negli Stati Uniti. Adesso è un genere, direi una nuova forma di entertainment. Questo film with live orchestra, che significa proiettare un film importante con la colonna sonora dal vivo eseguita da una grande orchestra, così come la sentiamo nei film, che molto spesso hanno delle musiche capolavoro. Beh, diventa ancora più emozionante dei film cult come questo. Assolutamente, perché diventa ascoltare il film veramente, no? Che quindi bello. L'orchestra suona in realtà surfando in qualche modo tra i dialoghi e gli effetti. Che poi deve essere a sync perfetto, non hai tempo di mixare, esatto, e mettere a sync, devi essere bravo tu subito. Infatti c'è uno staff tecnico importante, viene un sound engineer dagli Stati Uniti e ci sono solo due o tre direttori al mondo in grado di tenere per l'intera durata del film un'orchestra live in sync. Nel caso di Harry Potter si parla di 2 ore e mezzo di durata del film, quindi immaginate. No, 84 musicisti, quindi un'orchestra sinfonica al completo nella formazione dell'Orchestra Italiana del Cinema, che è un'orchestra dedicata a questo, è l'unica orchestra italiana dedicata proprio alla rappresentazione, alla promozione dello straordinario patrimonio rappresentato dalla musica del cinema, che ha così tanta forza di emozionare, di coinvolgere. Anche questa è stata impagabile. Assolutamente. Hai provato a dirgli la stessa cosa a quelli? Sì, l'ho detto a tutti i musicisti che il loro infatti contributo è impagabile. Esatto, infatti ci sarò io che farò pavo, pavo, faccio esatto, io. Quindi tema Pino di la farà in com'è diretta. Com'è il tema di Harry Potter? Tu lo sai, Alessio? Lo faccio io da solo questo. È John Williams, eh? E comincia così, anche lì. Sì, praticamente viene la colonna sonora viene eseguita live sin dai titoli di testa fino ai titoli di coda per l'intera durata del film. È un'esperienza che io ho vissuto veramente travolgente, devo dire, e poi molto educativa, perché dà l'opportunità di scoprire al grande pubblico un'orchestra sinfonica, certo, in maniera giusta, in maniera sì, non invasiva, senza uno giovane dice che palla l'hai detto tu, l'hai e detto invece tu va a vedere Harry Potter. Ma sì, quella, scusa, sì, bisogna veicolare certe no, perché cose, molti non sanno che cos'è il fagotto, per esempio, no? Dice, che suono fa il fagotto? Beh, lì fagotto lo senti, lo scopri ed è meraviglioso, è una scoprire sorta di Pierino il lupo, perché comincia ad associare, no? Ascoltando in diretta la colonna sonora, un particolare suono che sei abituato a sentire, come la celesta, il fagotto, il flauto, che il che servono per creare il basso, certa atmosfera, tuba, i tromboni, i corni, è meraviglioso. Io sono il barona proprio. Che cos'è il fagotto, Vito? È un legno, fa parte dei legni, quindi insieme ai clarinetti, ecco, gli oboi. Diciamolo che i legni sono quelli fatti di ferro, fanno però di legno, no, di legno. Perché come il golf, capito? Che legno userà? E quello dice, ho preso un pezzo di ferro, quello non è un legno, però sono gli ottoni. No, però io non sono uno specialista. Spero di no, non aver no, detto è giusto, ci sono i legni, ci sono gli ottoni, certo, insomma, certo, c'è no, tutta la sì, il fagotto, il controfagotto, che è un po'. Sì, vi ascolterei per ore. Però Alessio, e tu ti ascolterai accompagnato dalla grande orchestra, perché poi è in italiano, giustamente. Per insomma me è stato un regalo fantastico, devo essere sincero, ormai sono passati 15 anni, come dicevamo prima, quindi riascoltare la mia vocina. A me generalmente non piace riascoltarmi, però in questo caso, insomma, sono passati beh, tanti dai, anni. Ci quindi sta, dai, ci sta. È un'emozione grandissima, una cosa grandissima, già questa, una cosa pazzesca. Sentiamoti un po' in un Harry Potter, un momento che abbiamo estrapolato, perché non è facile trovare dei pezzettini liberi, se no devi scaricare tutto il film. Insomma, il povero Mauro Meconi, cioè, muore. Ascoltiamo un attimo. Potter, che cosa fai a zonzo per i corridoi di notte? Sono sonnambulo. È straordinario quanto somiglia a tuo padre, Potter. Anche lui era estremamente arrogante. Si pavoneggiava nel castello. Mio padre non si pavoneggiava. E io neanche. Ora, se non le dispiace, le sarei grato se abbassasse la bacchetta. Le tasche, vuotale. Ho detto le tasche, vuotale. Che cos'è? Una pergamena di riserva. Davvero? Aprila. Rivela i tuoi segreti. Questo è Francesco Vairano. Strano doppio, lo stesso direttore mio del Signore degli Anelli, lo stesso Gollum, Sméagol è sempre lui, insomma, lui quando c'è da doppiare qualcosa di doppio, di cattivo, di sottile, di tagliente, è sempre presente, non soltanto come direttore. Tu eri giovane. Qua ero giovine, anche qua ero giovine, insomma. Vabbè, ma sei sempre giovane, Padrignani, ma perché sta gente si sente vecchia a 30 anni? Sai che quando noi ci sentiamo giovani? Da quando io mi sento giovane a 60. Dicevo, da quando è nato un figlio ormai per me, insomma, sono cambiati i modi di vivere, quindi mi sento... Beh, il tempo vola. Certo. Ahimè, tempo sfuggite. Adesso lui sarà... Tempo sfuggite. Tempo adesso... sfuggite. Ma dai, 30 anni. 30 già... anni, lui ne... Sì. Quando avrà l'età tua, tu ce l'avrai l'età mia. Ti rendi conto? Sì. Certo, bello così è difficile arrivarci come me, Padrignani. Questo è difficile, questo, dai, bisogna dire la verità. Però insomma, ecco, è un'emozione, sarà un'emozione risentirmi, anche perché io sinceramente i film non, li ho visti una o due volte massimo, quindi insomma, certo, e con questa cosa, quindi sarà una cosa bellissima, è un regalo fantastico. Tu hai cominciato questa avventura al doppiaggio anche perché conosco, papà non è un doppiatore ma è un grandissimo esperto di suono. Sì, papà, no. Sì, insomma, il re del Dolby. Come molti ragazzi, i miei coetanei, abbiamo cominciato da piccolino questa avventura, avevo certo. 6 anni. E... perché ovviamente no, ma papà doveva pagare il mutuo, io conosco papà, lo so, Massimo papà, è così, no, Massimo è così. No, però no, tuo figlio quanti anni c'ha? È vero, c'è fame di bambini nel doppiaggio. C'è fame di bambini, già infatti a me stanno dicendo quando è pronto tuo figlio. Esatto, aspetta io un attimo. Quando c'ho mio figlio c'ha 2 anni, un fra secondo. 6 mesi lo infilo in sala e diranno raccomandati, esatto, figli esatto. D'arte. E allora no. E quindi si comincia così, insomma, da bambini. Qui arrivano tantissimi messaggi, oggi ne ho letti veramente pochi, col fatto della presenza di Enza Vitabile, e cioè, sono tantissimi che ci ringraziano sulla musica, sulla verità, sul sogno, vabbè, va bene, bellissimi, grazie, vi ringrazio tutti, vi chiedo scusa, qualcuno dice viva Napoli, viva l'Italia, grazie per la trasmissione, oh, se abbiamo fatto in modo anche di unire l'Italia... Santa miseria, ci siamo sentiti. Ma insomma, non c'è il napoletano, siciliano, c'è l'Italia, ragazzi. Io metterei l'inno nazionale come mi sveglio la mattina. Senti, però tu non sei stato soltanto Harry Potter, insomma, qui parliamo di quello. Sì, ma tu sei il bambino di Jerry Maguire. Sì, è vero. Che ci hai pensato un attimo? Ti eri già scordato? No. Sei Ray. Di Jerry Maguire, sì, che film fece anche in Stuart Little, poi seguì. Capito, ma questo ce lo sentiamo dopo perché manca soltanto un minuto. Io voglio ripetere invece il 2, il 3 e il 4 all'Auditorium Conciliazione, quello davanti a San Perfetto. Pietro, se non sbaglio. Sono 4 spettacoli. Sono un pomeriggio e serale. Il 2 è la premiere alle ore 20, sabato doppio spettacolo alle ore 15 alle ore 20 e domenica alle ore 18. Domenica posso? No, sto qua. No, vengo io venerdì, credo che alle 15 con la famiglia. Non potrei mancare. Alle 15 c'è una cosa domenica vino. Però vabbè. Ah no, c'è anche un derby. Io sto qui in diretta. Tanto vincete voi questa. No, buono, sta buono. Io arriviamo in un derby, credo la Roma deve ancora giocare. La Lazio so che è andata molto bene. Sì. Se dovesse vincere Roma anche oggi, bene. E lo ovviamente non faccio il male, parlo oggettivamente come un giornalista, sarà un derby straordinario. Sì, sì, è vero, sono felice di questo, finalmente. Se giocano finalmente. Qualcosa. Sarà una bella partita. Per cui 0-0, sì. Insomma ecco, esatto. Quello è quello che poi succederà, no? No, e mi poi tutti no. A vedere lo spettacolo. Sì, sì, ma io credo che già le prime due date sono praticamente sold out, c'è ancora posto sulla sabato sera e sulla domenica. E quindi però domenica alle 6 vi aspettiamo numerosi perché è veramente un'esperienza imperdibile Bella, da condividere. E subito dopo Harry Potter, a parte magari replicare Harry Potter, c'è un'idea di c'è una grande idea. Non c'è il segno c'è una grande idea. Ma dai, sta soddisfazione. Quando tu mi darai il segnale io scatenerò l'inferno. Ma quello è quell'altro, è Luca Ward. Hai capito? Ah certo, me l'ha no, detto. No, lo so che lo no, sai. No, lo so che lo sai, che lo so. ho capito, ecco, no, oh, non mi ha confuso con Word, per volevo carità, se mi confondeva con Word, perché noi ci vogliamo tutti bene, ma non mi vuoi fare questo, no? Buon intenditor, poche parole, come se uno mi dice bravo Pino, non potrà piovere per sempre, è bellissima la frase dice nel corvo. Intanto godiamoci Harry Potter e la pietra filosofale con la splendida voce di Alessio, certo, e la mia che faccio lo spot, e la tua che fai lo spot, e la tua graditissima presenza. Zitto, ringrazio a Dio tuo padre, guarda, e mamma. Sentiamoci fra pochissimo, l'ultimo blocco insieme ad Alessio Bucci e Marco Patrignani, e ci accompagneranno alla fine di questa trasmissione, magari un piccolo collegamento anche con tutti i convocati per sapere i risultati di calcio. No bad. Va bene? A tra poco. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... Voice Anatomy. Eccoci, l'ultimo momento insieme di questa puntata, ovviamente torneremo domenica prossima nonostante partite importanti e nonostante alle 18 ci sia Harry Potter e la pietra filosofale in concerto. Allora, ho i Barona vicino a me che mi hanno fatto compagnia per più di 2 ore con Enza Vitabile, però insomma è giusto anche... Sì, diciamo che tu ci conosci da tanto, quindi in questo un po' ci sottovaluti, ma noi abbiamo avuto anche noi delle esperienze, delle collaborazioni. No, ci tengo a dire questa cosa, si parlava di verità. Noi abbiamo avuto la grande fortuna di fare una collaborazione anche noi come Avitabile col grande Freddie Mercury, poi c'era Gianni Minà e Cassius Clay, e Barry White, vabbè. Sempre così. E abbiamo fatto un omaggio ai Queen, ovviamente. Beh, dopo che Freddie va lanciato al nostro amico Freddie. Assolutamente sì. Eccoli, Barahona in diretta, vero? Sono qui. Empty spaces, what we are looking for. Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Show must go on. Somebody to love. Show must go on. The champion's my friend. I'm faced with a grin. I never give a name. Io loro come orchestra quando io recito dal vivo, hai capito? Non metto 78 elementi. 84. Scusa, 84. 84 elementi. Impagabili. Impagabili, che si paghi. Ma il primo disco dei Barahona è stato registrato, sì, alla Forum. Sì, abbiamo avuto la fortuna di avere il messaggio del grande Franco Patrignani. Cioè grande. Però, sì, che messo i Giardini d'Alhambra con l'orchestra di Peppe Vessicchio quando facemmo Sanremo. E vinsero il premio della critica. Vedi che porta fortuna il Forum. C'era Fabio, giovanissimo Fabio. Fabio è il fratello, sì, che sono Franco il papà. Saltiamo. I Giardini d'Alhambra. Sì. Come fa? Sì. Pezzettino? Piccolo, dai. Ritornello? E poi hai denominato Franco. Bisogna farlo. Soluzione non è chiudersi in sé, fuggire la realtà, solitudine in sé. Sanremo, c'è niente da fare sto pezzo, eh? ci sta. Bene, allora sentiamoci allora Ray, che tu fai finta di dimenticarli, Jerry Maguire, film bellissimo, forse uno dei migliori di Tom Cruise, dove è un po' più vero di Mission Impossible, sì, che non è il solito, c'ha 71 anni, ce la faccio uguale a quando ha fatto i ragazzi da 56esima strada, un pezzettino piccolino ovviamente. Ino, prego. Oh, eccolo. Ehi, gli piace? Santo cielo. Guarda, ho portato alcune cose. C'è anche in grigio. Grazie, Jerry. Prego, figurati. Oh, santo cielo, guarda che cosa c'è qui. È una barretta energetica. Questa ti tiene sveglio tutta la notte. Direi che non è una buona idea. Andiamo? Andiamo, sì. Andiamo, scusa, andiamo. Oh, va bene. Buonanotte. Buonanotte. Abbracciami. È ben visibile, Eri, proprio. Mamma mia. Vabbè, ma mi ricorda un po' la vocina del mio piccolo. Vabbè, ma servono queste voci, per questo è difficile. Il bambino impara subito la tecnica e si infila dentro. Infatti ti fanno arrabbiare quando stai a leggere con un bambino, che il bambino lo fa buona la prima. E tu li cominci a odiare i bambini, no? Esatto. Cioè, ma me ne sto rendendo conto anch'io adesso. Che noi siamo tutte, no? Ci pensiamo. Sovrastrutture, esatto. Il bambino va dritto. Esattamente. Deve andare a sync con lui, magari sono frasi più corte, ovviamente. Però io ho dato una gomitata a uno che ha fatto The Road. Senti, che sbaglia, no? A papà, a zio, perché devi fare tutto bene. Marco, bella avventura, ma come ti è saltato in piedi? Beh, sono tanti anni. Il progetto dell'Orchestra Italiana del Cinema nasce proprio all'interno delle mura di quel luogo meraviglioso che è il Forum Music Village, creato da Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Luis Bacalov e Piccioni nel 69. Quindi è un luogo che pullula di energia, è in qualche modo il tempio della musica del cinema, e quindi quale miglior posto per originare un progetto dedicato a questo. Quindi l'Orchestra Italiana del Cinema da ormai 10 anni si occupa di questo, e io, girando il mondo, avendo avuto l'opportunità di andare negli Stati Uniti a suonare con l'orchestra in Cina, eccetera, sono entrato in contatto. Mai lì che c'è un amico. Vabbè, ma scusami. Sono entrato in contatto con questo tipo di entertainment, appunto. Ho avuto l'occasione di vederlo e rimanere completamente rapito da questa forma di spettacolo così travolgente, e quindi ho cominciato a lavorarci. È una cosa molto complicata, perché ovviamente ci sono i diritti, ci sono tanti pezzi di un grande puzzle da mettere insieme per originare una cosa del genere. Non è che prendi il DVD e ci suoni sopra, come potete immaginare. E quindi, insomma, è un'operazione produttivamente molto importante, ma anche, insomma, devo dire, ne vale la pena, perché tutti gli sforzi poi portano a questa travolgente emozione. Ti metti a piangere, sei contento, e speriamo, insomma, che anche il pubblico è emozionante, davvero. Avrà la stessa reazione. Non è, insomma, è sicuro, posso aggiungere questo, è sicuro. Per i biglietti, quelli che sono rimasti online, online su Ticket One, oppure direttamente in biglietteria Auditorium Conciliazione. Ok, quindi 2 secondi prima il parcheggio intorno si trova, non abbia, no, sì, su via la Conciliazione, sono... no. È meglio arrivare un po' prima. Sì, ma intorno, insomma, al quartiere Borgo Pio si trova. Anche perché, insomma, sarà una bella festa, anche proprio perché, insomma, non andiamo lì, andiamo a divertirci, andiamo, no, ad ascoltare una cosa bellissima, a vivere un'esperienza forse unica per molti, perché non capita tutti i giorni, insomma. E cercheremo di farla capitare poi nuovamente, e speriamo di annunciare presto. Ci stanno scrivendo da tutta Italia dove altro possiamo portarlo. Per ora siete soltanto a Roma, e dovremo andare a Milano, insomma, quindi speriamo di dare l'annuncio a giorni. E lì ci sarà ovviamente Alessio Puccio, che vi aspetta. Alessio ci segue, io seguo Alessio ci segue ormai con la bacchetta e dice, la cicatrice. La cicatrice. Tu pensa che io ho fatto il papà di Harry Potter nel numero 1, nei cosi segreti, cioè nei cosi segreti, come si chiamano? I contenuti speciali, ma segreto, okay, dove c'è sta il padre che muore subito. Sì. So io, ma non mi sono trovato. Mi sto cercando nel DVD, non me trovo. È così segreto che io, però l'ho doppiato, lo so. Vabbè, intanto non mi hai chiamato. Signori, grazie, è stata una puntata veramente emozionante. Bella dire poco, emozionante. Cominciata bene, grazie ai Barahona, grazie a Enza Vitabile, grazie a tutti i collaboratori, a tutti i protagonisti che si sono avvicendati al telefono. Grazie Marco Patignani, in bocca al lupo per questa stata di avventura. Grazie Alessio Pucci, Puccio con te, ovviamente ci ritroveremo per parlare lungamente un viaggio. Grazie Alessandro, grazie Milano, grazie Gaia, grazie Alessia Navarro, grazie Maro Megoni. A domenica prossima, ciao! Ciao.